Noi la vogliamo per una grossa multinazionale che si occupa esclusivamente dell'inventario, quindi andiamo nei vari punti vendita o magazzini a contare tutta la merce, solo che è un lavoro notturno, non ci viene riconosciuta una diaria, non ci viene riconosciuto il ruolo trasfertista, perché noi siamo sempre in negozi e punti diversi, non abbiamo una sede fissa, anche il pagamento non è adeguato alla mansione e quindi adesso stiamo tentando di cambiare un po' la situazione. Il tipo di contratti che avete è estremamente precario. Sì, esattamente, è un contratto a chiamata, quindi possono chiamarci a lavorare quasi tutti i giorni o non chiamarci anche nei periodi più pieni in base un po' a cosa decidono i manager in ufficio, quindi siamo proprio alla mercé dei nostri capi. Banalmente basta far notare cose che non vanno, dalla manutenzione dei mezzi, alzare un attimo la testa, farsi notare un attimo il negativo e ci si vede le chiamate praticamente annullate. Infatti è una cosa che ti spinge, ok, stai buono, non farti notare e fatti andare bene le cose, perché sennò rischi di non lavorare più. È simile, diciamo, a meccanismi che abbiamo conosciuto, ad esempio, per il lavoro dei riders, però senza un'app che gestisce il vostro ranking, insomma. Sì, esattamente. L'azienda non vi dà prospettive di stabilizzazione? A molte poche persone, perché alcuni colleghi hanno ottenuto il part-time, ma è veramente forse una persona su 100 ce la fa, altrimenti quando si raggiungono le 400 giornate lavorate nei 3 anni, semplicemente l'azienda, per non far scattare l'obbligo del cambiamento di contratto, ti fermano e tu smetti di lavorare. Negli ultimi mesi vi state però sindacalizzando. Sì, esattamente, ci siamo rivolti al sindacato USB, abbiamo provato a mandare le prime richieste, anche semplicemente l'incontro con l'azienda, che però non ci sta prendendo particolarmente sul serio fino a questo punto. Voi cosa chiedete? No, banalmente ciò che a me pare è giusto, perché ad esempio siamo tutti inquadrati con il sesto livello, il più basso, malgrado molti di noi abbiano mansioni diverse, anche che richiedono una formazione, quindi se ho la responsabilità di un inventario, di gestire una squadra, un adeguato livello contrattuale o il riconoscimento delle ore delle trasferte, perché se devo fare un inventario a 400 km dalla mia città, per adesso veniamo pagati 3 centesimi a chilometro e senza calcolare tutte le ore che siamo in ballo. Uno degli altri problemi è che, ad esempio, dovete guidare voi i furgoncini con cui vi spostate. Sì, esattamente, io ricopro anche il ruolo di autista, quindi ho la responsabilità del mezzo, soprattutto delle vite dei miei colleghi, perché sono mezzi fino a 9 posti. Non sono ufficialmente riconosciuta come autista, quindi se faccio un incidente, se sono stanca, perché capita di stare in giro 13-15 ore, sempre costantemente vigile al lavoro, se succede qualunque cosa, la responsabilità è solo mia. I miei colleghi hanno dovuto pagarsi, vabbè, multe, ma soprattutto danni ai mezzi, che Certo. capitano incidenti per stanchezza o spesso anche per la cattiva manutenzione del mezzo. Tu dicevi quando ci avviciniamo alle 400 giornate lavorate dovrebbe esserci un cambio di contratto, poi l'azienda smette di chiamarci. Comunque, in ogni caso, di lavoro ce n'è sempre. Sì, va un po' più a periodi, però ad esempio il periodo invernale, quello veramente intenso, va da settembre a gennaio, poi magari ci sono un paio di mesi un po' più tranquilli, maggio-giugno. Intenso, cioè ci sono persone che vivono solo di quello, facendo solo questo come lavoro, quindi permette una copertura annuale del lavoro.